Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La compagnia dei Masnadieri nel reading performato La notte di San Giovanni di Giovanni Edoardo Visione, regia Jacopo Bezzi, con Massimo Roberto Beato, Monica Belardinelli, Simone Chiacchiararelli, Sara Meoni, musiche e canzoni eseguite da Lorenzo Sorgi e Veronica Rivolta. C'è un piccolo prato dietro la casa e una croce dove li hanno radunati. L'erba calpestata, la cicoria, il canale di scolo, il muschio. Intorno nessun rumore, solo una pecora nel campo. Una pecora nel campo e una poiana che attraversa la valle. E le galline. Sul muro dove li hanno fucilati ora ci sono i nomi, in ordine alfabetico. Le lettere nere di ferro sulla lapide. E sotto il muro, al posto della scarpata dove cadono i corpi, un canale di scuro. Muschio sul cemento. E c'è un prato di fronte al muro. E nel campo una pecora. E una croce dove li hanno radunati. E c'è una croce davanti al muro dove li hanno fucilati. E una pecora, sola nel campo. Intorno nessun rumore. Una poiana attraversa la valle. I nomi dei morti, la lapide e le galline. Forte, odorante di sangue. Diario di Camerino, 8 settembre 1943. La radio delle 20 ha trasmesso stasera la notizia dell'armistizio. Nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. 9 settembre. Ordini bilingui affissi sui muri. Pena la fucilazione, consegnare le armi e ogni materiale già appartenente alle truppe italiane. 16 settembre. Occupazione di Macerata. 22 settembre. Siamo anche noi in mano dei tedeschi da sabato sera. Ieri è stato diramato un altro proclama bilingue. Il comando del corpo di occupazione tedesco ordina che tutti i militari, ufficiali, sottufficiali e truppa residenti nelle province di Macerata, allontanatesi arbitrariamente o muniti di regolare licenza o comunque sbandati a seguito dell'attuale situazione militare, devono presentarsi a questo presidio entro le ore 24 del giorno 23 corrente mese, pena la fucilazione con giudizio sommario. Sono stati loro, sempre. Sono loro le spie. Da caserme, accampamenti, scuole ed altri edifici sono stati sottratti dalla popolazione durante il periodo di tempo in cui detti edifici non erano sorvegliati, provviste, rifornimenti e generi alimentari di ogni specie, legumi, farina, conserve, articoli di bestiario, mobili. Ma questo succede anche qui, a Camerino, non lo vedete? Qualcuno ha cominciato ad organizzarsi da subito. A casa di Bruno Belardinelli hanno nascosto cibo, vestiario e scarpe. Farmacisti e medici hanno messo a disposizione medicinali. Questa sottrazione è ritenuta saccheggio e viene punita con la morte. In casi più leggeri con l'ergastolo o la prigione. Non sarà punito chi, entro 3 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, riconsegnerà gli oggetti e le cose rubate al podestà o li riporterà nei luoghi da cui furono sottratti. Noi stessi nascondiamo vestiti, armi, cibo per i partigiani. I fascisti forse hanno troppa paura per rendersene conto. Io non ci credo che non abbiano nessun sospetto. Cioè, i comunisti si sa chi sono. Bisogna stare attenti, Bruno. Bisogna stare più attenti. Quelle persone presso le quali, alla scadenza dei 3 giorni dalla consegna, saranno rinvenuti oggetti e cose sottratte ai suddetti edifici, saranno deferite al tribunale di guerra. Allora gli dico, scappa, Bruno, scappa! Stanno arrivando i fascisti. Eh sì, sì, me lo hanno detto mentre tornavo in strada. Fai in fretta, vestiti. Ce l'hai una borsa? Gridalo. Passa dalla finestra di là, per i tetti arrivi alle mura. Vai a Muccia, a Massa ci sono i compagni. Le spie, dicono quelli da fuori, i livornesi. Sono loro le spie. Contadini, non date ricetto ai banditi. Chi riceve in casa un bandito è nemico della patria e come tale sarà severamente punito. Il governo del Reich decreta che chi sarà trovato a casa uno dei detti banditi, saranno incendiati i pagliai e le capanne. Il bestiame sarà portato via e il capo di famiglia sarà colpevole di alto tradimento e come tale condannato alla fucilazione. Contadini, denunciate i traditori banditi. Contadini, non date pane e ricovero ai ribelli. Attenzione, contadini, è il Reich germanico che ve lo ordina. A questo punto è evidente. Siamo già ad un bivio. No, non parlo di loro. Parlo di noi. I giovani, gli uomini, hanno già deciso. Andarsene. Li chiamano sbandati. Ma fra loro parlano, si organizzano. Sono scappati in montagna. Dicono che sono spariti. Renitenti alla leva, disertori. Si nascondono nei fienili, nei cascinali. E noi allora? Ti uccidono, lo hanno detto, fucilazione. Sono cose cui normalmente non pensi, ma adesso, quando pensi di morire, non sai cosa ti fa più paura. Se il momento in cui ti ammazzano, il dolore. Chissà cosa si prova quando una pallottola ti entra nel corpo. Ho l'idea che da un momento all'altro smetterai di esistere. Pensare che oggi ci sei e domani no. Nei primi anni di guerra sembrava così lontano. Ora invece pensi che puoi morire anche tu, lo hanno detto. Pensi che puoi morire e ti fa paura. Ma poi, quando uno di quei ragazzi ti bussa alla porta, quando uno dei tuoi figli, dei tuoi fratelli bussa alla tua porta, tu che devi fare? In questi giorni in campagna capita di incontrare la gente più strana. Gruppi di slavi scappati dal campo di concentramento di Col Fiorito si sono organizzati in bande. E poi ci sono inglesi, russi, perfino qualche somalo. Di pelle scura. Tutti si sono dati alla macchia. Quando i tedeschi hanno provato a convincere gli slavi ad andare a Perugia per essere riaccompagnati a casa, per risposta hanno ricevuto tre frasi secche: non credere al nemico, non rispondere mai a nessun invito, trattare il nemico solo con le armi. Ma quando bussiamo alle porte della gente, ora, i nostri fratelli ci aprono. Così abbiamo cominciato ad aiutarli. Chi dando un pezzo di pane, chi alloggio, chi un vestito caldo, e chi, beato lui, addirittura un paio di scarpe. Beh, quello delle scarpe succede solo in città, perché qui chi ne ha due è già contento. Quando inizi ad aiutare, ti scordi la paura di morire. La rimetti in un angolo della tua testa. I giovani, gli uomini, sono andati via. Si stanno radunando, stanno formando dei gruppi. Eleggono capi, dice, o li accettano. Cercano armi. Li chiamano disertori, banditi, ribelli. Li chiamano patrioti, partigiani, compagni. A noi non interessa la politica. Ma poi, quando bussano alla tua porta, io che devo fare? Tra l'autunno e l'inverno le bande si ingrandiscono, si organizzano. Non ci sono più ferrovie in Italia, le strade devono restare libere. Per i tedeschi è un problema in più da risolvere. Bisogna sgomberare, spazzare via quelle bande. Non portate fiori sulle nostre tombe. Siamo pietra nella pietra, lucertole al sole sul muro del cimitero, e steli secchi e polvere. È freddo il sole del cimitero, dove i proiettili hanno crivellato i morti. Ora ci sono 5 buchi e 5 cerchi nella pietra per segnarli. Sono morti i fiori del cimitero e il sole non scalda. I corpi non ne hanno più bisogno. Nel freddo della fossa si gonfiano, si lacerano, scoppiano, diventano molli, formano bolle, passano dallo stato solido allo stato liquido, colano via, iniziano a liquefarsi. Era così bella la tua pelle, così morbida. Ci vogliono anni per togliere via tutto. Poi resta solo lo scheletro, poi la polvere. Niente. Diario di Camerino. 12 marzo 1944. Alcuni soldati tedeschi hanno preso possesso della ex casa del fascio. Piantoni sulla porta. In capo al corso e sull'incrocio con via 20 settembre, perquisizione ai passanti con mitra imbracciato. Al cinema Rosati, 3 ispezioni nella serata. Dopo, quando ormai è tardi, senti solo la rabbia. Quando non puoi fare più nulla per i vivi e i morti sono morti. Hai questa rabbia dentro e non sai come sfogarla. Non sai perché non hai fatto qualcosa prima. Ti chiedi cosa potessi fare. Nulla! Gli uomini almeno possono sparare, sparare o essere sparati. Gentilina Lorenzotti. Sta con un gruppo di donne di fronte alla chiesa di Santa Chiara quando arrivano i fascisti. Noi siamo ferme. Gentilina si fa avanti e grida assassini. Noi allora gridiamo dietro di lei. Assassini! Il sergente Pegoraro, quello che aveva comandato il plotone di esecuzione, si ferma. Noi allora gridiamo assassini! Avete ucciso 2 ragazzi di 20 anni, 2 ragazzi che conoscevamo tutti. Ma Gentilina si fa ancora più avanti. Si avvicina al sergente Pegoraro e sputa. Sputa contro il sergente Pegoraro. Il sergente Pegoraro dice di fermare quella donna. Le punta la pistola contro, minacciandola di morte. Quando senti quella rabbia, ti dimentichi la paura di morire. Pensi solo a gridare e sputare. Gridare e sputare la tua rabbia fuori. Quando non puoi sparare, puoi sputare. Gentilina non abbassa la testa. Non si scusa. I fascisti la lasciano andare, sconfitti. L'avete mai visto un corpo? Un corpo morto? Penso di sì. Mi dispiace. Quella quiete apparente. Come di sonno profondo. La postura ricomposta, certo, da mani pietose. Il particolare che sfugge, un occhio ancora aperto, o la bocca semidischiusa, come a dire oh. Un braccio, una gamba, naturalmente distorti, e il colore dei morti. Quel colore senza colore, grigio, opaco, privo di luce. La pelle già tesa, piatta, l'epidermide come di manichino, di pappa. Ma non li ammazzano subito. Franco Belfiori di Camerino era già ferito ad un ginocchio quando hanno fermato il camion. 2 ferite. La prima mentre caricavano il grano per uno stupido incidente. Un mitragliatore passato di mano in fretta, senza attenzione. Un colpo partito per caso. La seconda ora. Ma questa volta a sparare sono i fascisti, che li aspettano sulla piazza di Caldarola. Una scarica di mitra contro la fiancata del camion immobilizza il motore. E ferisce una seconda volta. Ma non li ammazzano subito, no. Quando gli intimano di scendere, Franco non ce la fa. Il fascista lo minaccia, lo strattona, lo scaraventa a terra. Il femore di Franco si spezza, poco sopra la ferita. Il fascista gli chiede di alzarsi. La gamba di Franco cede. È come fango, quell'impasto di ossa e sangue che non regge. Il fascista lo afferra allora e lo trascina in mezzo alla piazza, verso l'autocarro tedesco. La gamba di Franco sbatte sul selciato, si impunta. L'osso spezzato graffia le corde dei nervi, gratta il muscolo lacerato, rilascia scariche di dolore. Il corpo di Franco è pesante. Il fascista in mezzo alla piazza allora si ferma, prende la pistola e spara. Franco non muore. A morire sono gli altri. Ci ammazzano quasi ogni giorno. Mancini e Biancatelli fucilati contro il muro del cimitero di Camerino. Il piccolo Gianmario Fazzini, il ragazzo, falciato dal mitra contro gli altri sulla strada sotto Montalto. Don Enrico Pocognoni, parroco di Braccano, torturato nell'acqua gelida e freddato a tradimento da una fucilata alla schiena. O in un fosso vicino Vestignano e Caldarola trovano quello che resta di Aldo Buscalferri, ormai anziano, che non aveva voluto lasciare solo i figli. O il tenente Achille Barillatti, fucilato davanti al cimitero di Muccia, fa un gesto teatrale, davvero eroe, ma la differenza è che lo fa per davvero. Davanti al plotone di esecuzione, un attimo prima di essere abbattuto, grida «Viva l'Italia libera!» e muore. Da una delle ciliegie esce una piccola larva bianca, un poco allungata. Puoi mangiarla senza accorgertene. È morbida. È estate. Shh, non lo dire a nessuno. Ho due ciliegie in mano, vicino alla bocca. e una è rossa e liscia come sangue rappreso e dura come i miei capezzoli. Nell'altra c'è una piccola larva, un dittero bianco, che si muove appena e puoi mangiarla o sputarla, ma tanto non te ne accorgi. Mi piace l'estate, il profumo del legno umido che secca nel sole. Capisci che è estate dalla felicità delle mosche e dai grilli nel prato. Diario di Camerino, 12 giugno 1944. Ieri sera Radio Londra ha trasmesso un elogio speciale del generale Alexander, comandante in capo delle truppe anglo-americane sul fronte meridionale, ai patrioti della provincia di Macerata. Tra stanotte e stamani, accantonati in città e in campagna, reparti di alpini tedeschi, i pochi militi fascisti rimasti, se la sono svignata. 17 giugno, da ogni parte ruberie a mano armata hanno sfondato la porta dell'ex chiesa dell'Annunciata, bivaccano, suonano la fisarmonica. Per la campagna, ovunque sono stati i tedeschi, siepi distrutte, alberi spezzati, grano e fieno calpestati. I contadini guardano i segni della desolazione. Ore 16. Con esplosivo nei serbatoi dell'olio è stata fatta saltare la centrale elettrica di Caselle. Siamo al buio. Neanche la radio. Quasi non te ne accorgi quando arriva l'estate. I partigiani vanno e vengono dal paese. Pochi, sempre gli stessi. Io non voglio sapere cosa fanno durante il giorno, ma lo so lo stesso, perché sento i loro discorsi la sera. Don Nicola diceva ad un ragazzo: hai fatto bene a sparare. Ora che l'hai fatto una volta, vedrai che non avrai più paura. Pippo fa la corte a Caterina, le canta stornelli siciliane, e Lillo lo scuro, il messinese. Ha ancora un debole per la maestra, o forse per Righetta. Li vedi spesso insieme, e non sai se è bene o no lasciarli soli. Dico per lei, dico. Oppure puoi passare il pomeriggio steso sul prato, ormai caldo, e guardare il cielo, e succhiare un filo d'erba, con la foto della tua fidanzata nella mano, che fai vedere a un compagno, e dici: mi manca mio figlio. Fare l'amore è anche uno sfogo. È bello questo odore di erbe, di pane, di fiori. È ormai quasi un mese che siamo qui e combattiamo. Sono belli i fuochi nella notte dei lanci, i falò rossi nel campo, il cielo nero stellato. Quando passa l'aereo senti solo il rumore o intravedi una sagoma. Sono sempre più sicuri gli aerei inglesi quando passano senza nascondersi. Ma quello che mi piace davvero penso siano i fuochi, i falò rossi e le foglie degli alberi intorno al campo che tremano. Un attimo, passa l'aereo, cadono i rifornimenti, roba da mangiare, vestiti. Ma dove sono le armi? Perché non ci tirano armi? Solo qualche mitra stemmi, soliti, mai una mitragliatrice o un mortaio. Da mangiare ce l'abbiamo già qui in paese. Un buon pane, la zuppa, coi vestiti puliti certo ti gratti meno. Ma per combattere ci servono le armi. Questo lo sa anche Don Nicola, che dice: non sparate, ragazzi. Imparate a sparare. Parlano piano al sole le ombre stanche di rumore, le rabbie infinite menzogne. Lunghe di sterni vengono battuti, tra poco rossa il cielo. Incontri un tedesco per strada, magari giù al bivio di capo alla piaggia, pensi sempre che non ti farà niente, speri che non ti chieda nulla, perché non sapresti come rispondere. Basterebbe un attimo per sollevare il mitra senza neanche prendere la mira, sparare un attimo tra la vita e la morte, la raffica che ti schianta proprio sotto lo sterno, quasi spezzandoti. Ora ci sono molti più tedeschi di prima e si muovono troppo. Non stanno più fermi come prima. Don Nicola è di nuovo un comandante. Ha fondato il battaglione Fazzini alla fine di maggio, in onore del piccolo ragazzo di Camerino ucciso a marzo, a Montalto. Don Nicola dice, noi siamo un gruppo autonomo. Quando gli altri il mese scorso sono entrati nella brigata Spartaco, no, noi siamo rimasti fuori. Da noi non è permesso parlare di politica. Qui non si insinua l'idea comunista, il materialismo. Noi non parliamo di politica. Noi serviamo la patria. I tedeschi sono a un chilometro da noi, anche meno in linea d'aria. Di fronte, leggermente più in alto. Dalla posizione che hanno occupato sul Monte Sala, sopra capo la piaggia, possono controllare ogni movimento e ci osservano. Anche i partigiani li osservano, capire le intenzioni, intuire la prossima mossa. Sanno che i partigiani sono qui. Chi gliel'ha detto? Spie. Spie di Camerino. Nemici di qualcuno, forse, famiglie che si conoscono tutte, e con questo via vai continuo di gente non è facile tenere un segreto. Dicono che potrebbero accerchiarci, allora è meglio andarsene, no? Lasciare tranquillo il paese. I tedeschi sono comparsi all'improvviso su sul monte di Capo La Piaggia. Li osserviamo mentre si muovono sull'altro versante. I cannoni leggeri, i mitragliatori, i mortai. Capire le loro intenzioni. Anche Don Nicola li osserva. La sera del 20 giugno ordina la partenza per Paganico. Dice che si ritirano a Paganico, per sicurezza. Meglio non rischiare. Siamo più vicini che a Camerino, in vista dell'occupazione della città. Sì, ma dopo un giorno e mezzo già ritornano. Don Nicola dice che era un ordine sbagliato, un errore del comando di brigata. Ma ora rischiano l'accerchiamento anche lì. E non c'è un piano, torniamo a Pozzuolo, è meglio. Giorni di decisioni continue. Don Nicola non è mai fermo in un posto. Anche qui dice, non possiamo restare. Troppi tedeschi in zona. Partenza all'alba, ripieghiamo su Serra Petrona. Partono tutti, anche i prigionieri. Notte a Castel Venanzio, poi proseguiamo. Una staffetta è partita nel pomeriggio. I tedeschi non si vedono più, potete tornare in paese. Don Nicola era turbato quando la staffetta è arrivata a Serra Petrona. Essere chiamato traditore è tremendo. Dice che in quel biglietto portato dalla staffetta era scritto così: traditore. Era scritto traditore, ci ha lasciati soli, torna. Mattina del 24 giugno. All'alba ci sveglia il mitra. Una raffica, due. Chi è stato? Niente, non è niente. La sentinella ha visto qualcosa, un movimento sulla montagna di fronte. Ma ecco, questi non sono i partigiani, è un mitragliatore che risponde al fuoco dall'altro versante. I tedeschi sono tutti fuori dalle case, i partigiani, i ragazzi parlano tra di loro, dicono non è niente, lo vedi? Lì, sul fianco della montagna, se ne vanno. Abbiamo sparato prima noi, se ne vanno, state calmi. Tornate a dormire, ora calmi. Attraversiamo di nuovo la montagna, stanchi di questa inutile marcia che dura da giorni, avanti e indietro, da Pozzuolo a Paganico, da Paganico a Pozzuolo, da Pozzuolo a Serra Petrona, e ora di nuovo a ritroso, sulla strada che abbiamo percorso soltanto ieri. I prigionieri, scortati dai nostri, sono partiti prima, nebbia, come una bava lattiginosa attaccata alle montagne, alluminio sporco nel cielo, striature di nubi, tabacco marcio e la valle che fuma. Dice, esce il sole, non vedi? È festa! Un sole quasi caldo dopo l'alba fredda, nebbiosa, l'odore del legno umido appena spaccato. Le mosche nel prato. Andiamo a messa? Certo. E poi l'anno scorso c'erano i fascisti. Quest'anno i tedeschi, che cambia? Noi andiamo in chiesa solamente, ad incontrarci, a pregare. Per precauzione, nel caso ci osservassero le vedette nemiche, abbiamo sceso la montagna per vie assurde, tortuose, a zigzag. Don Nicola ci ha lasciato prima, in cima al monte, ha voluto procedere fino a Pozzuolo in perlustrazione. Dice che tra poco ci farà arrivare il rancio. La prima cannonata esplode insieme al suono delle campane all'uscita della messa. Perché ha suonato la campana? Perché il cannone ha sparato proprio in quel momento. Era un segnale convenuto ai nazisti. O i nazisti hanno pensato che quel segnale fosse rivolto a noi. Un allarme. Forse è solo un caso, non lo so, ma ora vedi quella fila grigia che sale lenta dalla valle e si avvicina, e la gente che fugge vorrebbe andare verso le montagne. La prima cannonata sventra il campanile della chiesa. Fuggiamo. La seconda cannonata uccide la signora Palma, la mamma del parroco. Corriamo verso la montagna, strisciando tra i cespugli per nasconderci alle mitragliatrici. Accanto, guardate, c'è una bambina ferita. Cerchiamo di risalire la montagna, la fila grigia delle divise naziste che sale dal fondo valle. Saliamo soli, raccolti in gruppi, strisciando. Inizia a piovere. La nebbia ci nasconde al tiro delle mitragliatrici. Poi... silenzio. Silenzio. Dopo 4 ore di bombardamento ininterrotto, improvvisamente il fuoco è cessato. Silenzio. E polvere dalle mura crollate. Una donna arriva dai campi più in basso. I tedeschi continuano a salire lentamente. Chiedono dove sono i banditen. Ernesto Bergamin, il brigadiere dei carabinieri, ci aiuta a nasconderci. Poi ad un tratto i tedeschi arrivano correndo, tirando bombe a mano, gridando! Per primi liberano i loro prigionieri. Quelli che non si sono allontanati verso la montagna vengono circondati, fermati, radunati in gruppi. Pensi sempre che ci sia una via di fuga? Non c'è! Non c'è! Ci sono tedeschi da tutte le parti! Cesare Bernardi ha una gamba spezzata alla caviglia! Mario Cecchini è stato ferito a un fianco! Appiccano il fuoco ad un fienile, sfondano le porte! Entrano in ogni casa alla ricerca di uomini! Noi non siamo scappati perché non volevamo lasciare soli i feriti! Io voglio sparire! Io voglio scomparire! Non posso! Io voglio sparire, diventare invisibile! Piove. Quelli che sono scappati corrono verso la nebbia per nascondersi. Poi vedo un'unica pozza di sangue che scorre per ore da 5 cadaveri. Alessandro Sabatini, la vedetta, porta ancora a tracollo il binocolo, ma non può muoversi. Ha le gambe spezzate, prima di finirlo con le baionette gli cavano gli occhi. Più avanti, Marino Marchi, 16 anni, è spezzato a metà, con gli intestini nella polvere. La metà superiore del corpo è ancora viva. I tedeschi medicano i feriti, li mettono in fila con gli altri, verso le tecce. Siro Borgarucci, 14 anni, si affaccia sulla porta della cantina con un fiasco di vino. Sorride ai tedeschi. Lo mettono in fila con altri 3. Scendono per un viottolo verso un mulino. Dopo circa 10 minuti sentiamo lo scoppio di 10 bombe a mano e una raffica secca di mitra. Dopo averci radunato ci tolgono tutto, soprattutto gli orologi messi da parte con cura. Poi ci dispongono in una fila ordinata, un soldato in testa e uno in coda. Ho sentito i prigionieri tedeschi, li ho sentiti dire uccideteli. Forse non ci faranno niente, dice che ci interrogheranno, ci hanno detto di portare anche i feriti a spalla. Camminiamo piano sotto la pioggia, risalendo la rapida costa delle montagne verso capo la piaggia. Camminano piano sotto la pioggia, attraverso il ponte di Letegge e risalgono verso capo la piaggia. Guarda, ci sono anche i Bartoli, padre e figlio, e Italo Cambertoni, 14 anni, e i Pascucci, padre e figlio, e i Sabatini. Ci fermiamo sulla piazza. I due feriti sono ricoverati in una casa, medicati e riposti con gli altri. I prigionieri liberati a Pozzuolo indicano uno ad uno 18 partigiani. E non abbiamo i documenti, non importa. Con il calcio del fucile ci rimettono in fila. I primi ad essere uccisi sono come sorpresi. Gli altri urlano, pregano, imprecano. Prima di andarsene scaricano le armi sui 40 corpi pigiati nella fossa. Poi dicono che nessuno si deve avvicinare. Un cadavere torna alla vita. Poi un altro. Si chiamano Giulio Lozzi, Urbano Albani. Scavano da soli, nei morti che li ricoprono. Sollevano gambe, braccia, teste. Escono dalla fossa pallidi, coperti di sangue. Chiedono aiuto. La pioggia lava il sangue, il freddo secca il sangue. La nebbia ammorbidisce le ferite. La scena è immobile. Il paese è immobile. Umido di pioggia. La notte è ancora fredda sul ciglio della valle. Nessuna azione. Poi due cadaveri tornano alla vita e camminano come fantasmi nel paese deserto. 40 morti insepolti nella fossa dietro casa Matteucci. 40 morti insepolti. E finalmente siamo liberi. Se mi chiedi perché siamo morti, perché abbiamo scelto da che parte stare. No, non è così. Siamo morti perché noi sapevamo da che parte avevamo scelto di stare. O forse no, mi sbaglio ancora. Cosa sapevamo noi davvero? Ecco, così forse è più giusto. Siamo morti perché loro sapevano, tracciando una linea chiara, netta, tra il bene e il male, definendo i confini del campo, i limiti, o uccidendoci. Loro sapevano, noi da che parte avevamo scelto di stare. A volte ripenso a quella notte, la notte di San Giovanni, quell'improvviso silenzio, e tu dici tutto è finito. Ma cosa è finito? Lo vedi? Non c'è più neanche un tedesco in giro. Tutto è finito. Ma ora? Cosa comincia? Forse è proprio questo il momento in cui senti quello che non sei stato e che dovresti essere. Quello che sei e che vorresti. Il dolore insanabile, la sopravvivenza, la ricostruzione, la redenzione o la corruzione. Tu dici, ora potremmo essere finalmente. Io dico... Sull'Aia, dietro casa Matteucci, c'è una croce, davanti al muro dove li hanno fucilati, e una pecora sola nel campo, e i nomi dei morti, la lapide e le galline. Una mattina mi son svegliato, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, se io muoio, partigiano, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire, seppellire, su montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Delle genti che passeranno, passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore, partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la compagnia dei Masnadieri nel reading performato La notte di San Giovanni di Giovanni Edoardo Visione, regia Jacopo Bezzi, con Massimo Roberto Beato, Monica Belardinelli, Simone Chiacchiararelli, Sara Meoni, musiche e canzoni eseguite da Lorenzo Sorgi e Veronica Rivolta. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Ariele Vincenti, regista della sesta edizione dei Nasoni raccontano la storia a Il Naso Lungo, al Quadraro dal 24 giugno al 2 luglio 2022, ben trovato. Ciao, ciao Federico, buongiorno, grazie per avermi invitato. Raccontiamolo. Nasoni è un festival che ormai è diventato quasi un cult per Roma, perché ogni anno I ragazzi dell'organizzazione decidono di raccontare un quartiere diverso e quest'anno è il Quadraro. Negli altri anni è stato fatto a Centocelle, a Torpignattara, al Pigneto. Quest'anno, proprio in occasione della ricorrenza dei 100 anni del Quadraro, hanno deciso insomma di farlo lì e mi hanno chiamato come regista di questa cosa. Sono 5 scene di teatro vero e proprio diverse che si svolgono in luoghi diversi del Quadraro. Ogni scena è ambientata in un'epoca diversa, quindi cominciamo dagli anni 20, anni 40, anni 60, anni 70 e anni 90. Negli anni 20 si raccontano due comparse di Cinecittà durante il primo film Ben-Hur muto, però naturalmente oltre alla storia del quartiere è sempre un pretesto per raccontare anche la storia dell'Italia, no? Dell'evoluzione dell'Italia, quindi negli anni 20 l'autore Fabio Morgan ha deciso di ambientare questa scena con due comparse di Cinecittà che pochi giorni prima dell'omicidio Matteotti e quindi con tutto quello che ne consegue. Anni 40 siamo in piena guerra, occupazione tedesca. Il Quadraro veniva chiamato il nido di vespe dai tedeschi perché era pieno di partigiani che colpivano come le vespe e poi sparivano misteriosamente. Poi abbiamo gli anni 60 in cui raccontiamo questa scena degli anni 60, la facciamo proprio nella piazza del mercato del Quadraro e raccontiamo la storia di questo Don Sardelli, un prete straordinario che viveva in mezzo ai baraccati del Quadraro, gli insegnava a leggere e scrivere e poi dopo vari tentativi col sindaco di allora, pensate che ha scritto, mi sembra, 47 lettere di sollecitazione, è riuscita a far assegnare a ogni baraccato una casa popolare. Poi abbiamo gli anni 70, siamo pochi giorni dopo i morti di Calarenzia e c'è stata una rappresaglia fascista lì al Quadraro, questa è una storia vera, che hanno ucciso un ragazzo che stava lì in una piazza del Quadraro, ne hanno preso uno a caso e ne raccontiamo questa cosa. E poi c'è gli anni 90 invece, che raccontiamo la chiusura di uno storico cinema, il Bristol, e quindi il passaggio dalle sale cinema alle sale bingo, ecco. E la cosa bella è che il pubblico finisce una scena, va in un'altra location, quindi cammina tra una scena e l'altra e ha l'occasione di visitare un posto stupendo che pochissimi conoscono, neanche io conosco, che è il Quadraro Vecchio, che è un posto meraviglioso. Quindi facendo una sorta di serpentina tra i vicoli del Quadraro si troverà poi immerso in atmosfere teatrali che raccontano epoche diverse, raccontano sia il Quadraro ma la storia dell'Italia, insomma. Si tratta di 4 giornate, come si svolgeranno? Quali saranno gli orari e i luoghi? Faremo 24, 25, 1 e 2 luglio, innanzitutto ingresso gratuito, si parte da piazza Don Sardelli alle 20:30 con la prima scena questa degli anni 20, per capire meglio, venendo da Arco di Travertino e prendendo la Tuscolana c'è la discesa, all'angolo sulla destra c'è una storica bancarella di bandiere della Roma, si prende quella via e lì c'è piazza Don Sardelli, lì sarà la prima scena. Fine di questa scena, il pubblico attraverserà la Tuscolana ma attraverso il passaggio sotterraneo della metropolitana e arriverà a una croce, un monumento dedicato ai caduti della guerra, e lì ci sarà la seconda scena, appunto ambientata negli anni 40. Finita questa scena, qui si andrà nel mercato, dove faremo la scena dei baraccati. Poi c'è un parco lì vicino e poi si chiuderà tutto in un parco che si chiama, credo, il Giardino dei Ciliegi, e ci sarà l'ultima scena con la coreografia finale, poi due chiacchiere col pubblico che non guastano mai, insomma, anche per recuperare un rapporto più umano anche col pubblico. Queste secondo me sono operazioni che servono anche a questo, oltre a raccontare le storie, a cercare di avere un rapporto più intimo, più sincero col pubblico, ecco, e non borghese, ecco. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più, dei dettagli del programma? Questo festival, come tantissime altre manifestazioni in giro per Roma, è organizzata dalla Città Ideale, un gruppo di ragazzi straordinari che appunto quotidianamente lavorano per cercare di rendere Roma la città ideale, anche attraverso operazioni come Nasoni. Quindi sulla pagina La Città Ideale trovano tutte le informazioni del caso. Potete portare i bambini anche, perché mi dico che è sempre pieno di bambini, io insomma sto portando anch'io mio figlio, e quindi è un teatro proprio per tutti, insomma l'arte per tutti, quello che ci interessa fare e raccontare oggi. Questa edizione dei Nasoni raccontano la storia Il Naso Lungo al Quadraro dal 24 giugno al 2 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Ariele Vincenzi. Grazie, grazie Federico, un abbraccione. A presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Con Tiziano Panici della direzione artistica partecipata di Dominio Pubblico, La Città agli Under 25, a Roma, Teatro India e Spazio Rossellini, dal 24 giugno al 3 luglio 2022, ben trovato. Ben trovato a te Federico, a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici per questo nuovo appuntamento con Dominio Pubblico. Nona edizione, non so neanche io come ci siamo arrivati. Spieghiamolo per chi non lo conoscesse. È un progetto che in realtà si sviluppa nell'arco di tutto l'anno, perché a inizio anno un nuovo gruppo di ragazzi e ragazze tra i 20 e i 25 anni diventa la nuova direzione artistica di questo festival, che giunge quest'anno alla nona edizione. Dominio Pubblico è un percorso di formazione, di crescita di una comunità dedicata alle arti e al teatro, in particolare alle arti multidisciplinari, perché nel festival si ospitano artisti giovanissimi, sempre sotto i 25 anni, insomma tra i 20 e i 30 anni di età, che quindi molto spesso affrontano il palcoscenico per la prima volta e stanno costruendo un percorso professionale, non soltanto nel campo del teatro ma anche in quello della danza, delle arti performative, della musica dal vivo, ma ci sono sezioni dedicate anche al cinema, alle arti visive, al fumetto, alla street art. Insomma, la volontà dei ragazzi che prendono parte a questo progetto è sempre stato dare ampio spazio alla creatività dei giovani, e questo è il nostro obiettivo. Per questo ci sono tanti progetti strani che escono fuori dagli schemi, che escono fuori dai formati. Il Teatro Indie è stata la nostra casa per tanto tempo, torna a esserlo quest'anno insieme allo Spazio Rossellini, cercando di creare una sorta di ponte anche narrativo all'interno della città, perché come dice il sottotitolo del festival, la città va agli under 25. Sono una decina di giorni, come saranno articolati? I principali eventi si svolgono durante il weekend, quindi partiamo venerdì 24 giugno con parti di apertura. Racconteremo comunque di nuovo il programma a tutti gli spettatori e le spettatrici che vorranno essere con noi, insieme anche all'artista Sale, che ci ha accompagnato tutto l'anno con una sorta di soundtrack, un eterno inutile presente che ha vinto anche il progetto di produzione di Lazio Sound. E proseguiamo poi con tutta una serie di eventi che appunto raccolgono danza, teatro e musica dal vivo nelle sale e nello spazio esterno del Teatro India. In particolare sabato 25 giugno e domenica 26 giugno, tra gli ospiti speciali di questa edizione, accogliamo gli Stalker Teatro, un gruppo di Torino che ospitiamo grazie a Mirabilia Festival, una delle nostre connessioni, dei nostri network, che presentano uno spettacolo all'India, si chiama Drama Town City, sabato 25 giugno, mentre domenica partiamo con un incontro dedicato appunto all'arte urbana proprio in compagnia degli Stalker, e terminiamo alle 19 con una performance che loro portano in giro da tempo appunto proprio sull'arte partecipativa, che si chiama Steli. E come sempre poi proseguiamo invece con danza, la selezione anche appunto del premio Twain con cui collaboriamo da diversi anni, andiamo in scena alle ore 22 e concludiamo con la musica alle ore 23. Infrasettimanale ci spostiamo a Rossellini martedì 28 giugno con una rassegna di corti cinematografici realizzata insieme all'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, curata interamente appunto dai giovanissimi, realizzata in collaborazione con Hip Hop Cinefest e Giro Giro Corto, e presenteremo anche uno dei nostri documentari proprio sulla street art che si chiama Mart, il docu. E giovedì 30 avremo un altro grande evento ospite, si chiama Il Parlamento parla alla città, è un progetto che abbiamo mutuato dal Teatro dell'Argine di Bologna, saranno con noi per raccontare stavolta invece la città di Roma attraverso lo sguardo di studenti e studentesse di 5 diversi licei romani con cui abbiamo collaborato tutto l'anno, che hanno scritto 5 lettere alla città, e chiameremo appunto la città ad ascoltarle, e per la città intendiamo anche le cariche politiche che sono chiamate ad intervenire, ad ascoltare questi interventi. Il progetto si iscrive all'interno di un quadro più grande che è Politico Poetico Plus, progetto che l'anno scorso è stato premiato per gli UBU e da Rete Critica, insomma come uno dei progetti di maggiore interesse, e si divide anche con una parte molto particolare dedicata sempre a quella che è la generazione post-pandemica. E venerdì 1 luglio troverete il loro spettacolo Labirinto, che è completamente in realtà virtuale, quindi è per pochi spettatori, c'è bisogno di prenotare in largo anticipo. Il Labirinto è un'immersione completa, faremo 4 turni al giorno allo Spazio Rossellini, che è appunto il luogo che ci accoglierà dopo India, e questo sarà uno dei main event. Ovviamente anche lì troverete invece altre occasioni interessanti. Venerdì 1 luglio ospitiamo lo Stato dell'Arte di Cresco, dove avremo ospiti Tamara Bartolini, Quarto Mazzini, Loco Teatro e Carlo Massari per la danza, quindi ecco ospiti illustri della scena contemporanea che si confrontano con queste nuove giovanissime generazioni. E poi come sempre un bellissimo ciclo di arti performative, danza, teatro, che si conclude sempre con la musica dal vivo circa alle ore 23. E lo stesso schema si ripete sabato 2 luglio, dove stavolta l'evento speciale è una serata jam di slam poetry organizzata in collaborazione con Wow, diretta da Lorenzo Lorenzo Maragoni, che è appunto uno dei fuori formato che quest'anno accompagnerà, no, il mashup della nostra programmazione serale sempre allo Spazio Rossellini, e concludiamo domenica 3 luglio. Spazio Rossellini si trova in via della Vasca Navale, quindi è molto vicino al Teatro India, si raggiunge facilmente da Ponte Marconi, e avremo le ultime repliche del Labirinto, incontreremo anche il circo e concluderemo con uno spettacolo dal titolo emblematico Canzone per l'Apocalisse, e con la restituzione del laboratorio di Alice Conti, un'altra grande artista che da sempre cerca di dialogare con il linguaggio giovane. In Italia presenta questo laboratorio, si chiama Love, Revolta and Battle, partecipano attori non professionisti che poi restituiranno la loro versione, e si andrà a concludere con l'ospitalità dei finalisti della sezione Borderless del premio Lazio Sound, sempre all'esterno con l'Eco Orchestra, che è un ensemble di circa 30 chitarre che suoneranno, ci spaccheranno, diciamo, di musica fino alla fine della serata. Ecco, questo è il succo del programma che vi consigliamo di andare appunto ad esplorare. Tutto questo verrà raccontato nuovamente il 24 giugno al Teatro India, quando inizierà la nostra kermesse. I riferimenti web? È tutto sul nostro sito www.dominiopubblicoteatro.it, l'intero programma è cliccabile, i biglietti sono già acquistabili online, ma per chi appunto è meno boomer di me può invece seguirci su tutte le nostre pagine social, a partire dalla pagina Facebook e quella Instagram, dove avrete sempre possibilità di accedere al programma, scaricarlo, perché abbiamo smesso di stampare su cartaceo, ormai divulghiamo il nostro programma solo in digitale. Questo da dopo la pandemia è diventata per noi una sana abitudine che ci fa risparmiare carta e denaro e anche tempo a voi che volete informarvi. Quindi andate sulla nostra pagina di Dominio Pubblico, sul nostro Instagram di Dominio Pubblico, scaricate il programma, acquistate anche online in anticipo, oppure prenotatevi alla mail prenotazioni@dominiopubblico.it. Nona edizione di Dominio Pubblico, la città agli under 25, a Roma, al Teatro India e Spazio Rossellini, dal 24 giugno al 3 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Tiziano Panici della direzione artistica partecipata. Un abbraccio, a presto. Un abbraccio, grazie, grazie Federico, grazie a voi che ascoltate. Ciao. Con Mattia Tombolini di Momo Edizioni, uno dei curatori del AirFest, Festival dell'Editoria Radicale per Bambini e Ragazzi a Roma, Parco della Torre di Tormarancia, dal 30 giugno al 3 luglio 2022. Ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Come nasce questo evento? Nasce un po' nella redazione di Momo e anche un po' tra le idee che abbiamo coltivato in questi anni, che è quella di capire qual è la fetta di editoria che ci interessa, in questo caso editoria radicale, che per noi radicale vuol dire andare alla radice delle cose. Nasce anche da un'esperienza catalana di un festival che si chiama Literal, che viene fatto tutti gli anni, a cui ci è capitato di partecipare e siamo rimasti positivamente impressionati, perché è un festival di appunto editoria radicale con tutti gli editori spagnoli in quel caso, ma anche europei, e in qualche modo, diciamo, l'idea è quella di provare anche in avanti a creare un festival. Per adesso, diciamo, è nato in fretta e in furia, abbiamo partecipato all'estate romana, siamo riusciti a vincere, quindi per adesso abbiamo coinvolto un numero di editori che ci interessavano, che ci piacciono, che in particolare fanno cose per ragazzi e per bambini. Però l'idea nel futuro sarà quello in qualche modo di ampliarla ancora di più, quindi farlo diventare magari una cosa anche di respiro italiano, europeo, che riesca a coinvolgere più editori, realtà culturali radicali che ci interessano, al di là anche dell'editoria. Quante saranno le editrici presenti? Sono una quindicina per adesso. Molte di loro cureranno degli appuntamenti durante il festival, quindi delle presentazioni, dei laboratori per bambini, degli incontri e anche dei dibattiti, degli spettacoli. Ecco, appunto, come saranno strutturate queste giornate? Sono 4 giorni, partono tutti il pomeriggio verso le 5, cerchiamo di andare verso l'orario più fresco, tra virgolette. Il pomeriggio ci saranno sempre dei laboratori e poi delle presentazioni. Dal primo giorno iniziamo con Red Star Press, che è una casatrice tra l'altro del quartiere in cui siamo, con le avventure di Super Spruce. Poi un laboratorio sulla resistenza partigiana fatto da Erika Silvestri, che è una nostra editrice di Momo Edizioni, accompagnata dal suo libro che si chiama Il domani era venuto. E poi la presentazione con Roberto Grossi di Cassa Dritta, appunto. Un fumetto invece in questo caso, quindi è un target anche un po' po' più alto sulla storia anche delle feste, dei rave, una storia comunque secondo me importante degli anni 80, 90 e 2000 che in qualche modo a livello culturale qualcosa hanno detto, insomma. Poi in finale, insomma, del primo giorno ci sarà questa cosa molto particolare, Segnali d'allarme, che è uno spettacolo curato dallo germano Omar Rashid, particolare perché si svolge tutto in realtà aumentata e in VR, quindi il venerdì si parte con dei laboratori, il pomeriggio Libera dal ciclo, che è un nostro libro, Fuga in punta di piedi della casa editrice Sinnos, e poi la sera un dibattito con Zero Calcare sul suo ultimo libro, che è una raccolta di più cose, quindi ci dà la possibilità di parlare di più argomenti. Fine sabato abbiamo un primo laboratorio che abbiamo fatto più volte, ma che vogliamo riportare pure a Tormarancia, che è scrivere sui muri, quindi prenderemo un muro del Parco della Torre e lo abbelleremo insieme ai bambini e le bambine. Poi ci sarà un laboratorio di scrittura che parte da un libro di Momo che gli adulti fanno schifo, con Gina, e poi Uma dal mondo di sotto, un altro laboratorio curato da Marta Baroni. E infine uno spettacolo teatrale, Il tempo stringe, di Davide Grillo. Dopodiché ci abbiamo la domenica, è l'ultimo giorno pieno di cose, che inizia subito con un incontro super interessante con questa sinergia che abbiamo trovato da poco con il Sant'Alessio, l'Istituto per Disabilità Visiva, che sta proprio a Tormarancia, che curerà due incontri, uno su come si costruisce e come si fa un libro tattile per l'infanzia, con due esperte lavoratrici proprio di questo campo del Sant'Alessio. Dopo questi incontri per ciechi con l'Istituto per Ciechi Sant'Alessio abbiamo Cos'è il sesso, che è un libro che per noi è andato benissimo, importante, che ribalta, diciamo, anche l'idea che per parlare di sesso ai bambini bisogna parlare per forza di procreazione, invece ne parla di desiderio e insomma ne parla da un punto di vista diverso. Un altro libro, poi un altro laboratorio sulla resistenza curato da Becco Giallo. E infine ci abbiamo due incontri divertenti nell'ambito della satira, uno con Giulio Armeni e Tiziano Sprocca, che hanno letto direttanti su Dante Alighieri, e infine uno spettacolo di Sgargabonzi sul suo ultimo libro, che è Confessione di una coppia scambista al figlio morente. Insomma, questo vi ho fatto la carrellata, quella generica. La cosa più semplice è andare sul nostro sito o sui nostri canali social. Ci dai tutti gli indirizzi? momoedizioni.it, poi abbiamo Facebook, la pagina Momo Edizioni, e Instagram. Airfest, Festival dell'Editoria Radicale per bambini e ragazzi, a Roma, Parco della Torre di Tormarancia, dal 30 giugno al 3 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Mattia Tombolini di Momo Edizione, uno dei curatori del festival. A presto. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, a presto. Con Cristiana del Comitato Gineologi d'Italia per presentare il libro Jinjian Azadi, la rivoluzione delle donne del Kurdistan a Roma, all'LO Acrobax, giovedì 30 giugno 2022. Ben trovata. Ciao a tutte e tutti, grazie innanzitutto a Radio Onda Rossa per questa possibilità. Di cosa si parla? Jinjian Azadi, donna, vita, libertà, che insomma, come molti sapranno, è un po' lo slogan che ci accompagna spesso anche nelle manifestazioni a sostegno e solidarietà della rivoluzione del Kurdistan. È esattamente il messaggio che contiene questo libro, ed è il messaggio che ci lancia il movimento delle donne kurde. Questa volta lo fa attraverso le parole raccolte dalle compagne internazionaliste che hanno potuto svolgere il loro percorso di formazione all'interno dell'Accademia in Rojava, Accademia di Gineologi, e che appunto ci riportano le parole delle compagne che sulle montagne o nei comitati europei, quindi del movimento delle donne curde qui in Europa, appunto hanno sperimentato per prime, costruito per prime ciò che rappresenta la base sostanzialmente ideologica del confederalismo democratico, ovvero quel percorso di formazione attraverso la scienza delle donne, Gineologi appunto, che sostiene uno dei principali pilastri del confederalismo democratico, ovvero la liberazione delle donne. Il libro racconta attraverso appunto un insieme di ragionamenti e riflessioni fatti dalle compagne di ritorno da Rojava e attraverso le parole appunto delle compagne curde il lungo percorso che attraverso 40 anni di storia del PKK ha costruito appunto il movimento delle donne, ha portato alla creazione dell'esercito delle donne e alla costruzione appunto di quello che è oggi il partito delle donne che sostiene la rivoluzione in Kurdistan. Lo fa lavorando nell'autonomia delle comine in Rojava, ma lo fa appunto attraverso un movimento molto più organico che sulla base della scienza delle donne, quindi della ricostruzione di quella che è la storia delle donne, la scienza fatta dalle donne, il portato che in qualche modo la storia, il sistema capitalista e patriarcale ha cercato di nascondere, no? Come la polvere sotto il tappeto, di farlo restare celato in un angolo. Storia invece si prende il suo spazio e viene recuperato proprio per dare forza al confederalismo democratico. Il primo pilastro, quello della liberazione delle donne, ci dice, e lo spiega benissimo il libro, molto meglio di come io posso fare brevemente, come nell'ideologia curda e nel processo politico la donna venga riconosciuta come la prima colonia, la prima terra, diciamo, sottoposta a schiavitù, il primo elemento quindi da liberare per poter liberare tutti gli altri, per poter liberare la società. Quindi è un percorso che in qualche modo si fa, parte dalle donne, ma arriva a costruire un percorso di liberazione appunto per tutta la società, e questo è un messaggio importantissimo, è un messaggio rivoluzionario, è un messaggio soprattutto che costruisce un'utopia concreta, quella dell'alternativa realmente praticata nell'autonomia del Rojava, così tanto posta sotto attacco. E giovedì 30 ad Agrobax sarà l'occasione anche per, grazie a Chiara Cruciati del manifesto che modererà la presentazione, il confronto, anche per aggiornarci su quanto sta accadendo in Rojava e nell'Iraq del Nord, dove nuovamente la Turchia e non solo, con i suoi alleati Barzani, sta attaccando i curdi e ancora una volta sta attaccando il processo rivoluzionario in atto. Parliamo anche un po' dell'attività del Comitato Genealogi Italia. Dal 2016 noi ci siamo ritrovate come compagne che hanno iniziato a conoscere, grazie al movimento delle donne curde, alle compagne internazionaliste, alla genealogia, a iniziare il loro percorso di formazione, organizzarsi in tutta Italia, quindi non solo a Roma, e soprattutto farlo attraverso un processo di formazione, di trasformazione e di costruzione di consapevolezza che portiamo avanti tutte insieme. È la capacità di guardare anche al femminismo da un altro punto di vista, fatto appunto quello che passa attraverso la trasformazione, la messa in discussione di come il sistema patriarcale in qualche modo ha invaso anche le nostre vite, come le nostre vite nascono e crescono all'interno di questo sistema, sistema dal quale è necessario separarsi, facendo un lavoro profondo di formazione e di consapevolezza, di conoscenza di se stesse e di messa in discussione collettiva, proprio per tornare poi alla società, al lavoro quotidiano, nelle nostre realtà sociali, politiche, nel nostro attivismo, ma anche insomma nel nostro primo nucleo tra virgolette di intervento, che è quello della famiglia, della vita quotidiana, portando a un cambiamento radicale fatto attraverso un percorso che è stato già tracciato da anni dal movimento delle donne curde, prima di tutto sulle montagne del Kurdistan e poi fino qui in Europa. In chiusura, per saperne di più in rete, ci dai dei riferimenti sia rispetto al libro che al comitato? Potete seguire le pagine che già ci seguono normalmente, relative all'attività di Wiki, all'attività del centro Ararat a Roma, di Rete Gin in tutta Italia, per avere informazioni su quali sono i percorsi, le mobilitazioni, le iniziative. Per quanto riguarda il libro, in rete trovate diversi articoli. L'invito è quello ad esserci giovedì prossimo ad Agrobax a partire dalle 6:30, poi la serata continuerà insomma sempre a sostegno del Comitato di Genealogi Italia, per conoscere di più, ma soprattutto per poter acquistare anche il libro e approfondire poi insieme quelle che sono le tematiche poste al centro del libro e soprattutto del percorso della genealogia. La presentazione del libro Jin Jian Azadi, la rivoluzione delle donne del Kurdistan a Roma, LOA Acrobax, giovedì 30 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento a Cristiana del Comitato Genealogi Italia. A presto! Grazie, grazie a voi e speriamo di vederci giovedì prossimo. Grazie ancora. Con Pasquale Grosso di Da Sud per presentare la seconda edizione del festival Vista da qui, la democrazia. A Roma, all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, il 16, il 23 e il 30 giugno 2022. Ben trovato! Ciao, bentrovati tutti quanti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, un piacere essere da voi. Ci manco da un po' fisicamente. Lo raccontiamo? È un festival che è nato, insomma, l'anno scorso dopo, cioè, gli anni turbolenti del lockdown, l'esigenza di chiacchierare, di continuare dall'Accademia Popolare dell'Antimafia dei Diritti, perché questo è il progetto di Da Sud residenziale all'interno appunto di una scuola in periferia. L'idea di continuare a costruire immaginario, continuare a costruire un dialogo aperto al territorio, aperto alla città e che vada ben oltre ovviamente i confini della nostra capitale e che si espande come ragionamento e come creazione di immaginario a tutto quello che succede nel mondo. La democrazia al centro di questo festival, con un punto di vista che è quello di vista da qui, cioè com'è la democrazia vista dalla periferia della capitale. La periferia è chiacchieratissima in questi anni, no? Sappiamo benissimo quanta anche retorica viene fatta, no? Sulla narrazione delle periferie. Noi un bel po' di anni fa abbiamo scelto la periferia come sede del nostro operato e da qui continuiamo a costruire appuntamenti che hanno a che fare appunto con la divulgazione culturale e in generale di dibattiti e costruzione di percorsi collettivi all'interno di questi luoghi. Come ti ho detto, però, a partire da qui, per aprire questi posti alla contaminazione del mondo, perché poi in questi anni di chiusure varie, l'esigenza di contaminarsi, l'esigenza di confrontarsi è sempre più impellente e noi pensiamo sia necessario affrontare alcune tematiche. Poi quest'anno in particolare ci sono degli appuntamenti importanti, c'è cioè il trentennale delle stragi di Capaci, dove non c'è stata una grande narrazione, un grande dibattito pubblico dell'agenda politica del paese, è stata trattata come un avvenimento, appunto un appuntamento molto poco dibattuto dal punto di vista politico. L'antimafia vive un momento complesso, complicato, le elezioni di queste ultime 48 ore, no? Hanno restituito per esempio in Sicilia la caduta di Palermo, è complicato, è un momento molto complesso, c'è bisogno di parlarne, pensavamo insomma che il dibattito fosse più importante, ecco, che nell'agenda del paese fosse rilevante questo trentennale. Poi c'è la guerra, ovviamente, che è un tema che non può essere messo in secondo piano mai, e beh, noi proviamo a dare il nostro contributo. Lo facciamo in questi tre giorni di appuntamenti. Ogni giorno ci saranno quattro presentazioni di libri e ogni giornata avrà i suoi temi. Il 30 giugno chiudiamo con una finestra aperta sulla guerra, sull'Ucraina, ma con un libro che è stato scritto tanto tempo fa, quando il Donbass veniva preso d'assalto. Si chiama Ucraina, la guerra che non c'era. È un libro molto attuale, scritto da Andrea Ceresini e da Giroffi. Poi c'è, a cura di Magville, questo collettivo che si occupa di fumetti nel nostro progetto dell'Accademia, la produzione culturale abbraccia tanti linguaggi e tante pratiche. Quello del fumetto è per noi molto importante, quindi avremo uno speciale La Stanza con Maurizio Di Bichini, che racconta In Italia sono tutti maschi, che è di Sara Colleone con Luca De Santis. E poi chiuderemo con la graphic novel di Giacomo Bendotti di qualche anno fa, che però è stata ripubblicata, dedicata a Falcone e Borsellino. E faremo a seguire L'esercito della Lupara, che è uno spettacolo di e con Alessandro Pera. Durante il nostro festival ci saranno anche delle altre possibilità di usufruire di contenuti. Facciamo un lavoro con la realtà aumentata che si chiama Le Stanze dell'Antimafia. Sono delle virtual room dove si possono esplorare contenuti inerenti ai libri che presentiamo e quindi sperimentiamo anche linguaggi artistici multimediali per contribuire a una narrazione anche più moderna di quello che raccontiamo. E lo facciamo da noi, lo facciamo nella DAP, Accademia Popolare dell'Antimafia dei Diritti, che sta nel quartiere Lamaro, alle spalle di Cinecittà. Ecco, un programma molto ricco che insomma siamo molto contenti di riproporre, perché sai, quando fai la prima edizione di un festival non è detto che tu mi faccia una seconda edizione, no? E quindi di questa cosa siamo molto molto contenti. Quest'anno è stato un anno molto faticoso, tra aperture e chiusure dello scorso autunno, insomma, legata alla pandemia, sempre con un poco di restrizioni. Adesso siamo un pochino più tranquilli e più sereni nel nostro operato e quindi siamo contenti anche di riproporre Vista da qui, che è un esperimento e che vogliamo continuare a far crescere sempre di più. Per i dettagli del programma ci dai riferimenti web? Certo. appaccademia.it, troverete tutte le informazioni e sulle nostre pagine social, sia su Facebook, sulla pagina di Da Sud, che è la pagina dell'Accademia, che su Instagram. Sui nostri canali troverete tutti i dettagli degli appuntamenti. Si parte il pomeriggio alle 6:30, perché sono quattro presentazioni che si seguiranno, una sorta di piccola maratona, ma si farà all'aperto, si farà in totale riappropriazione degli spazi e anche della socialità, che per noi è decisamente rilevante in questo momento. Seconda edizione del Festival Vista da qui, la democrazia a Roma, all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, 16, 23 e 30 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento a Pasquale Grosso di Da Sud. A presto. Grazie ragazzi, grazie, grazie mille, buon lavoro e viva Radio Onda Rossa. con Michele Losi, direttore artistico della 18ª edizione del Giardino delle Esperidi Festival. Quest'anno il sottotitolo è Following the Sun, nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza, dal 23 giugno al 3 luglio 2022. Ben trovato. Buongiorno, ben trovati a tutti. Raccontiamo cos'è. Questa è la 18ª edizione del Festival delle Esperidi ed è un'edizione che abbiamo voluto chiamare Following the Sun, perché l'idea è quella di portare il pubblico davvero a piedi seguendo il sole, specialmente al tramonto, tra momenti performativi e momenti di spettacolo che abbracceranno appunto dalla poesia alla musica, alla danza, alla performing art e al teatro contemporaneo. È l'idea di un palinsesto che si compone di 15 giornate di spettacolo dal vivo, in cui dalle 4 del pomeriggio fino alle 2 di notte il pubblico può seguire un percorso che è fatto di 5-6 eventi al giorno. Quanti eventi sono previsti per questa edizione? Ho perso un po' il conto, ma penso che siano 33 gli eventi complessivi. E ci sono alcuni eventi che sono degli eventi compositi anche un po' particolari. Faccio un esempio, che è quello legato a Dove sono nato non lo so, che è una 4 giorni, dalle 7 del mattino a mezzanotte, di lettura integrale dell'opera di Cesare Pavese. Questo per esempio sarà un momento performativo aperto al pubblico, gratuito in questo caso nella corte di Palazzo Gambassi. Il pubblico avrà a disposizione la scaletta delle letture da Pavese e potrà decidere di venire a sentire la Luna e i Falò, piuttosto che i dialoghi con Leucò, piuttosto che i racconti o qualsiasi delle opere di Pavese, sapendo esattamente a che ora inizierà la lettura di quell'opera. Questo è una sorta di evento trasversale che copre 4 giornate complessive del festival e che si va a intersecare invece con altri eventi, con altri spettacoli. Come saranno articolate le giornate? Abbiamo una 4 giorni iniziale in cui ci spostiamo da un borgo all'altro, per cui andremo a coprire Olginate sul lago, passeremo per Val Grigentino con delle performance all'interno di antichi paesi curate in particolare da Principio Attivo Teatro, per arrivare poi al borgo di Mondonico con Franco Arminio, con Vittorio Ambedei e con altri autori che presenteranno le opere. E poi invece la seconda parte del festival è più concentrata su Campsirago, quindi sui palchi all'aperto di Campsirago, sui sentieri che connettono Campsirago agli altri villaggi, e in questo caso la programmazione spazierà appunto dalla poesia al teatro contemporaneo, alla danza, perché abbiamo anche parecchi spettacoli di danza, a dei momenti invece di concerto, di DJ set. Ci dai anche tutti i riferimenti web per i dettagli? Sul sito ilgiardinodelfestival.it ci sono tutti i riferimenti, c'è anche una brochure scaricabile in cui si entra poi chiaramente nel dettaglio di ciascuna delle opere che verrà presentata, poi ci sono anche i riferimenti veramente telefonici se servissero maggiori approfondimenti, il nostro staff è a disposizione. Come si sta sviluppando nel corso degli anni, visto che siamo arrivati a una 18ª edizione? È un po' come se stessimo passando al principio delle Esperidi, nel senso che il principio delle Esperidi è quello di un festival che è nato su un territorio che è molto particolare, perché pur essendo vicino a Milano, a Lecco, ad altre città super popolate, in realtà è un territorio spopolato, è un territorio che si è spopolato negli anni 50 perché è in quota e su una montagna, e quindi quello che era successo tra gli anni 50 e gli anni 70 è che questi luoghi si sono completamente spopolati. Quindi l'idea originaria del festival, quando nacque 18 anni fa, era di riconnettere dei borghi e dei luoghi utilizzando dei sentieri oramai quasi abbandonati, e quindi una sorta di piccolo processo di rigenerazione urbana che ripartiva da un movimento di carattere culturale, nello specifico legato al teatro e alla danza. E quello che è successo è che poi nel tempo il festival ha preso anche forme differenti, ci sono stati degli anni in cui era molto legato alla danza, degli anni in cui è stato molto legato al teatro, adesso negli ultimi 2-3 anni ha ripreso in maniera forte questo tipo di taglio legato alla natura, legato al paesaggio, legato a riconnettere i luoghi, e anche la nostra residenza, Campsirago Residenza, sta ricostruendo il borgo anche da un punto di vista architettonico, per cui c'è proprio l'idea di riconnettere dei luoghi e di renderli luoghi d'arte tutto l'anno. Il festival sicuramente è un po' un momento clou, perché è un momento in cui sia gli artisti ospitati che le produzioni della residenza vengono mostrate al pubblico, e in cui gli artisti vivono insieme agli abitanti e vivono insieme al pubblico, quindi ha un po' questa caratteristica, però è un po' la caratteristica che sta prendendo l'attività che facciamo durante tutto l'anno. 18ª edizione del Festival Il Giardino delle Esperidi, Following the Sun, questo è il sottotitolo per questa edizione, nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza dal 23 giugno al 3 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Losi. A presto! A presto, grazie, vi aspetto. Con Alessandro Fabrizi, direttore artistico dell'8ª edizione della Festa di Teatro Ecologico, dal titolo Corpi Celesti per l'edizione di quest'anno, all'Isola di Stromboli dal 25 giugno al 4 luglio 2022. Ben trovato. Ciao, ben trovato a te. Come va? Bene, sono contento di sentirti. Ci siamo visti anche per la presentazione ufficiale del festival. Sì. Raccontiamolo a chi non lo conosce. Qual è la storia di questa kermesse? La festa di teatro ecologico è nata nel 2013 con un'edizione zero. È venuta fuori da alcuni anni in cui comunque venivamo a Stromboli a fare dei seminari di metodo Linklater per voce e testo. E alla fine di questi seminari facevamo sempre delle restituzioni pubbliche sull'isola senza usare né amplificazione per la voce né illuminazione elettrica. Per cui ci siamo detti, ma proviamo a proporre questo gioco ad altre persone. Per cui fin dal 2013 abbiamo invitato altri artisti, ma non solo, anche giornalisti, scrittori, a mettersi in relazione rispetto a un tema. La festa fin dal primo anno ha sempre ogni anno un tema e proporre appunto una lettura, una performance teatrale o di danza o di musica oppure la presentazione di un libro oppure spesso sono arrivati interventi di tipo di carattere scientifico o letterario o di altre forme di studi, però appunto in questa modalità in cui il relatore, il performer e il pubblico sono illuminati dalla stessa luce che è quella del sole oppure quella delle torce se è al buio e le stelle, la luna e non c'è una divisione appunto fra palco e platea, ma si è tutti appunto illuminati alla stessa luce, per cui abbiamo proposto questa sfida per vedere cosa succedeva e abbiamo visto che rinunciando appunto a certi effetti tecnologici si guadagnano delle cose, si crea una relazione molto particolare di ascolto, si affina l'ascolto, si affina la partecipazione e l'incontro. Un'attrice, Elodie Treccani, disse una cosa bellissima quando nel 2016 abbiamo fatto La Tempesta di Shakespeare integrale sulle spiagge di Stromboli e lei faceva Ariel. Lei disse: la sensazione non è quella di fare qualcosa per il pubblico, ma di fare qualcosa con il pubblico. E questo lo sente l'attore o il relatore o chiunque sia, e lo sente anche il pubblico, ovviamente. Sente che la cosa si fa insieme. Ecco. Poi dal 2013, appunto nel 2016 c'è stato un grande salto perché abbiamo fatto la prima produzione site specific di uno spettacolo teatrale integrale itinerante in vari luoghi dell'isola, era l'anno del 400° anniversario della morte di Shakespeare per cui l'abbiamo dedicata a Shakespeare, nel 2017 la festa è stata dedicata invece ai trascendentalisti americani perché erano i 200 anni dalla nascita di Thoreau, l'autore di Walden, nel 2018 abbiamo celebrato le meravigliose creature, le creature tra l'umano e il non umano perché ricorreva appunto in quel caso del 200° anniversario della prima pubblicazione del Frankenstein di Mary Shelley e nel 2019 abbiamo celebrato sia Leonardo da Vinci che l'allunaggio, 50 anni dal primo allunaggio. Poi ci siamo fermati per il Covid, l'anno scorso abbiamo fatto un'edizione molto ridotta e quest'anno abbiamo deciso di celebrare due anniversari. Uno è il centenario della nascita di Margherita Hack, la nostra grande astronoma italiana, e l'altro il centenario della prima pubblicazione delle novelle per un anno di Pirandello e abbiamo stanato nel corpus di tutte queste novelle appunto quelle novelle in cui i personaggi guardano il cielo, guardano le stelle, guardano i pianeti e riflettono su questa sensazione di essere piccoli in questo universo così grande e misterioso. Com'è strutturata l'edizione quest'anno? Come è venuta a formarsi negli ultimi anni, quindi ci sono attività di condivisione, per cui per esempio noi ci mettiamo tutti a disposizione, chiediamo anche agli ospiti di mettersi a disposizione di attività di cura dell'isola, per cui faremo 3 incursioni al mattino di pulizia delle spiagge, poi ci incontriamo tutte le mattine nel bar, in piazza, per chiacchierare intorno al tavolo di quello che è successo le sere precedenti e le sere succedono varie cose, ci sono appunto incontri quest'anno con diversi astronomi, astrofisici che ci raccontano vari aspetti dell'universo delle letture di alcune novelle di Pirandello e anche una mise en espace di una lettura che si chiama Pallottoline, in cui appunto c'è questo protagonista che è appassionato di astronomia, che dice che tutti i pianeti compresa la Terra sono solo delle piccole pallottoline in questo grande universo. E poi abbiamo deciso di leggere ad alta voce il primo poema dedicato all'astronomia, di Arato di Soli, che sarà letto da Laura Mazzi e sarà accompagnato da delle musiche scritte appositamente da Gianluca Misiti per questa occasione, per un quartetto, che è il Fabrica Ensemble Quartet. Per cui ecco, come ogni anno ci saranno momenti di teatro, momenti di danza. Per la danza c'è sempre un gruppo che ci viene proposto da Giorgio Rossi, che è il consulente per la danza della festa, che presenta uno spettacolo che guarda un po', si chiama Costellazioni, e momenti musicali, momenti appunto di incontri invece di divulgazione scientifica. Abbiamo il grande onore di avere ospite Francesca Matteucci, che la stessa Margherita Hack definì la sua successora, professoressa all'Università di Trieste. Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il programma è già sul sito Festa di Teatro Ecologico, dove c'è il programma dettagliato. Siamo in una Stromboli, come sapete, bruciacchiata, ma sempre bellissima, per cui forse alcuni degli eventi non potremmo farli dove avevamo immaginato di farli, però ancora non è detto, siamo in trattative con la natura, ecco, come è d'altra parte nella natura della festa. Ottava edizione della Festa di Teatro Ecologico, dal titolo Corpi Celesti, Isola di Stromboli, dal 25 giugno al 4 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Fabrizi. A presto! Grazie a voi, a presto, grazie! Con Gianni De Domenico, uno degli autori del libro 100 celle, racconti di un quartiere che resiste, fresco di stampa. Ben trovato. Ben trovate a tutti e tutti. Che racconto è questo? Intanto è un racconto di racconti. È un progetto nato per il centenario della nascita di 100 celle. 100 celle nel 2021 ha compiuto 100 anni, nasce dall'idea di un gruppo di 7 persone, in parte attivisti, in parte abitanti del quartiere, da insegnanti a varie altre categorie, che si sono messi insieme con l'idea appunto di tracciare un po' un filo che legasse questi 100 anni, che legasse a quest'idea di un quartiere resistente, ma con un occhio particolare al tessuto sociale, cioè quindi veramente cercare di parlare per la prima volta di tutte quelle espressioni del politico, ma anche del sociale, anche del vissuto quotidiano di questo quartiere, l'hanno reso quello che è. E quindi è stato un lavoro lungo, più di un anno. Abbiamo fatto un racconto di racconti. Il libro è appunto è composto di 45 racconti, ripeto, che vanno da attivisti del quartiere a partigiani, ad artigiani che nel quartiere sono stati una presenza costante e che hanno rappresentato più di un solo mero atteggiamento commerciale, no? Oppure, che ne so, l'imam di 100 celle, oppure la suora Maria, che è la barbona di 100 celle. Cioè, abbiamo cercato di dare veramente uno spaccato per capire un po' questo quartiere e le relazioni che in questo quartiere da 100 anni a questa parte lo hanno attraversato. Quindi abbiamo deciso di dividerlo in 5 paragrafi, più o meno sono 100 anni diviso 5, quindi sono blocchi da 20 anni. Il primo dalle origini alla resistenza, il secondo dalla fine della guerra alla grande trasformazione del quartiere, il terzo i lunghi anni 70, il quarto ripartire verso il nuovo millennio e il quinto 100 celle negli anni 2000. A cosa resiste questo quartiere? Beh, questo quartiere è un quartiere che resiste sicuramente ai processi di dissoluzione, per esempio, delle reti sociali, ai processi di isolamento e di individualizzazione della vita di ognuno di noi, alla gentrificazione, nonostante sia diventato un quartiere, no, che ha tantissimi locali, però ecco, è riuscito a rompere un po' l'idea dei quartieri movida, ad esempio come Pigneto o San Lorenzo, proprio per la sua peculiarità. A 100 celle, ad esempio, una delle caratteristiche anche nel nascere di tutti questi locali che lo caratterizza è il fatto che l'80% dei locali sono aperti da gente di 100 celle. E questa è una cosa molto importante, perché ha evitato in qualche modo, no, il discorso iperspeculativo, cioè nascono da piccole esperienze di quartiere e mantengono sempre appunto l'idea di creare rete sociale. E quindi anche questa è una forma di resistenza all'interno dei processi appunto che viviamo tutti quanti all'interno dei quartieri. Resiste anche alle spinte omofobe, razziste, nazionaliste. Centocelle è un quartiere in cui appunto la presenza dei migranti è molto molto forte, c'è la seconda moschea di Roma per importanza dopo quella di Monte Mario e che è un po' rappresentativa, di fatto sarebbe la prima moschea di Roma per numero di persone che la frequentano giornalmente. E questo è importante, c'è un quartiere che noi definiamo quartiere arabo, cioè una presenza molto forte nella vita sociale e tutto questo non ha mai creato problemi. I migranti che raccontano se stessi sul libro lo dicono, che anche nelle loro reti sociali molte volte invitano i nuovi a venire a Centocelle perché è un quartiere dove si può vivere, dove c'è un vissuto che dà la possibilità appunto di vivere insomma la propria vita senza discriminazioni o vessazioni di qualsiasi tipo. Quindi Centocelle io direi che resiste a tutto questo, e però per resistere a questo non si fa solamente con quella che noi abbiamo sempre definito la politica, certo che si fa con quella, ma non solo con la politica con la P maiuscola, ma anche appunto con la politica, quella quotidiana, di vita, le relazioni sociali, l'attenzione sempre a quello che ti circonda. E questo quartiere su questo ha cercato di mettere sempre appunto in rete le persone. Quando ci fu l'attacco alla pecora elettrica, insomma, il quartiere rispose in modo veramente notevole, non aspettato, con un corteo spontaneo di oltre 5.000 persone, fatto in un giorno, indetto la sera prima e il giorno dopo. Cioè, quindi c'è un tessuto sociale vivo che si muove in vari ambiti, da quelli della scuola piuttosto che all'interno anche dei vari, per esempio, gruppi di delivery che fanno capo alle grosse holding della logistica, oppure attraverso le reti resistenti formate dai centri sociali o dai luoghi occupati. Insomma, c'è tutto questo. E in più, quello che ha determinato appunto in 100 anni a questa parte è dalla resistenza appunto, quindi da quartiere in cui i tedeschi non venivano volentieri perché c'era una forma di ostilità più che palpabile, era evidente e manifestata. E quindi da quel momento in poi noi pensiamo che ci sia stato un filo che ha portato questo quartiere ad essere quello che è, insomma. Ora cominceranno le presentazioni del libro, per saperne di più ci dai dei riferimenti internet? Adesso ci sono una pagina web sia sul sito Centocelle, anche il Fort ha fatto una pagina web sul libro. Le presentazioni probabilmente inizieranno a settembre, il libro andrà anche in diverse librerie del quartiere, forse anche in qualche edicola, e poi daremo un programma di presentazioni. Il libro Centocelle, racconti di un quartiere che resiste, un saluto e un ringraziamento ad uno degli autori, Gianni De Domenico. A presto! Un ringraziamento a voi, grazie, ciao, a presto, ciao ciao. Con Anna Carla Broeg per presentare la performance legata al libro Rabbia proteggimi di Eddie Marcucci. Ciao Federica. Ciao, buongiorno, ben trovata. Come nasce quest'idea? È stata una proposta che mi ha fatto Pasquale Passaretti. Mi ha chiesto se volevo scegliere con lui degli stralci di questo libro, Rabbia proteggimi, e leggerli insieme per questa presentazione. Avendo io seguito chiaramente tutto il percorso, tutto il viaggio di Eddie e anche del libro, essendo stata a varie presentazioni, ho scelto di farlo perché è un libro a cui tengo molto. Semplicemente per il fatto che penso che racconti la sua esperienza, ma anche quella di una generazione che sta provando in ogni modo a essere goccia. Ecco, per utilizzare le parole di Lorenzo Orsetti, tratte anche dalla lettera che c'è all'interno del libro, e quindi di cambiare realmente qualcosa partendo da un'umanità tangibile. La scelta che abbiamo fatto con Pasquale, che sta curando anche la regia, la scelta delle musiche e con il quale abbiamo approfondito appunto scegliendo degli stralci da leggere, è quella proprio di rendere questo momento un vero e proprio reading. In che senso? La differenza tra ciò che può essere performance e ciò che può essere reading per noi è il fatto che queste sono esperienze, vite, proposte proprio di cambiamento che non possono essere interpretate. Nel senso che interpretare queste parole sarebbe come sminuirle, togliergli un messaggio. Per noi queste parole devono essere ascoltate. L'obiettivo del reading al quale abbiamo lavorato è proprio quello di essere cassa di risonanza, di inviare un messaggio. Perché un pochino pensiamo che questo sia anche l'obiettivo del libro. Da un'esperienza, questo non è un libro individualista. Lei racconta chiaramente le sue esperienze e non sono esperienze da sola. Non è un libro che parla di solitudine, di individualismo. È un libro che parla proprio di una rivoluzione, partendo dalla rivoluzione confederale in Siria fino ad arrivare a una rivoluzione umana. Quindi per noi era molto molto importante essere il messaggio nella bottiglia, ecco, essere voce di questa cosa. E quindi non interpretare nulla, ma farla risuonare, risuonare, risuonare, risuonare parole come voglio essere goccia. Che cosa vuol dire essere goccia? Che cosa vuol dire scatenare la tempesta? Quanta umanità c'è dietro a tutto questo? E queste saranno le domande che vorremmo che tutti si ponessero e quindi saranno le domande che vorremmo che rimbombassero nelle teste di chiunque ci sia, di qualunque presente alla presentazione, ecco. Su quali estratti vi siete concentrati? Volevamo ovviamente raccontare un secondo l'excursus, quindi partiamo dall'esperienza nelle IPG, dal fronte. Partiamo anche nel raccontare una comunità e come si organizza. C'è un momento molto bello, secondo me, in cui dice: prima del Kalashnikov ho utilizzato il cemento, ho ricostruito l'accademia, ho cooperato insieme alle mie compagne, ai miei compagni. Quindi com'è una vita in condivisione? In che modo riusciamo a mettere da parte la nostra individualità per lo stare insieme? E quindi come si fa anche nelle cose più pratiche, nelle cose più piccole della costruzione di un altro mondo, parte proprio dal cemento. E questa cosa ci interessava proprio per raccontare la quotidianità, perché molto spesso noi abbiamo notizie veramente deviate, sbagliate, mentre invece lì si sta provando realmente a rivoluzionare un qualcosa partendo dal piccolo fino ad arrivare poi al grande, fino ad arrivare al combattimento. E quindi volevamo raccontare un pochino questo excursus. E poi chiaramente ci siamo concentrati sul processo, perché stiamo parlando della definizione di socialmente pericoloso. Questo è socialmente pericoloso? Poniamocela questa domanda. Cioè, sperare in un mondo migliore, combattere per un mondo migliore è socialmente pericoloso? Amare è socialmente pericoloso? E quindi abbiamo raccontato anche un pochino le tristi storie del tribunale italiano, quindi prendendo alcuni estratti descritti in maniera minuziosa e anche molto umana all'interno del libro. Questo a noi piaceva molto, perché fuoriesce questa umanità che un pochino ci riguarda tutti, che un pochino indossiamo tutti, quindi potremmo essere tutte e tutti in un certo senso. E poi abbiamo scelto la lettera di Orso, perché è proprio qui, appunto, ti parlavo della goccia, quindi ogni tempesta inizia con una singola goccia, questa richiesta, e a noi piaceva tantissimo questa lettera. E alla fine non abbiamo scelto anche un'altra lettera, che è quella di un bambino delle medie, e le sue opinioni proprio sulla lettera di Orso, perché era bello per noi vedere come si trasformavano queste parole di bocca in bocca, questo messaggio nella bottiglia, come arrivava. Questi sono più o meno gli estratti che abbiamo scelto nel libro per raccontare un pochino l'esperienza tutta. Un evento estemporaneo o che può essere l'inizio di un lavoro a partire dal libro? Io credo sia un seme in questo momento. Io ad esempio oggi conoscerò Eddie, ne sono molto molto contenta, e parleremo insieme degli stralci che abbiamo scelto, e spero sia proprio l'inizio di un lavoro. Ed è bello se all'interno, appunto, di un festival come il CRAC si può avere appunto la possibilità di incontrarsi magari persone che hanno delle idee vicine, comuni, una voglia comune, riuscire anche a costruire anche questo, no? È il festival, e riuscire a costruire, ad incontrarsi. Quindi penso che questa sia semplicemente la possibilità di dare inizio. È un attimo un seme, è un attimo una voce che potrebbe tranquillamente trasformarsi, anzi vorrei che accadesse. La lettura performata del libro Rabbia proteggimi di Eddie Marcucci. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Anna Carla Broeg. A presto! Ciao Federico, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Con Marco Teatro, autore del libro La guerra dei segni, un'altra storia dell'arte. Ben trovato. Eccoci, è un libro sostanzioso, che è una raccolta di storie di personaggi che hanno costruito con il loro lavoro l'arte underground, possiamo definirla così, anche se è una parola su cui bisogna discutere parecchio per capire esattamente di che cosa si sta parlando, perché ovviamente parlare di arte underground è una cosa un po' vaga, che spesso delimita un certo manierismo di disegnare o di produrre arte figurativa. Il libro raccoglie un po' da testimonianze a pensieri, a situazioni create da decine e decine di autori che nell'arco di mezzo secolo, diciamo quasi interamente nel 1900, hanno dato poi origine all'innovazione che poi ha cambiato anche interamente tutto l'arte mainstream. Come era nato il progetto? È un progetto che avevo in mente da tanto tempo, perché io per circa un decennio ho organizzato un festival di arte underground, figurative underground, che si chiamava HIU, che poi negli anni avevo portato anche a Roma, sempre a Forte Prenestino, è una cosa molto antecedente al crack, però non avevo mai pubblicato nulla sulla storia complessiva generale che stavamo trattando con questo festival. Nonostante che il festival comunque si è svolto dal 93 al 2003, quindi ormai parecchio tempo fa, nel tempo non avevo più ripreso in mano il progetto. Poi, forse anche un po' causa al lockdown e molto tempo a disposizione, mi sono messo lì, ho cominciato a scrivere, a ritirare i fogli di appunti, a rielaborarli fino a produrne un libro. Come ti sei orientato? Su cosa ti sei concentrato? La storia è molto complessa. Mi sono concentrato innanzitutto su una questione che comunque è difficile tenere insieme un periodo così lungo e così vasto di storie, di stili, ed è difficile comprenderne il significato e i collegamenti che avevano tutti questi stili e le cose che si sono tramandate vicendevolmente e le contaminazioni vicendevoli degli autori. Quindi il libro vuole essere un po' una guida sostanzialmente, è un saggio, una guida che aiuta un po' le persone a orientarsi in tutto quello che è accaduto, che è successo nei decenni, e nello stesso tempo anche capire quanto tutto questo ha influenzato la vita quotidiana di tutti e quanto tutto il mondo dell'arte sia anche stato influenzato dalla politica e dalla società e viceversa, ovviamente. Da dove sei partito? Che arco temporale hai coperto? Per riuscire a dare un inizio di tutto sono partito dagli anni 50, quando ancora non era assolutamente concepita la definizione di arte underground, però comunque vi è nata e per oltre un decennio è rimasta comunque una cosa underground senza sapere di esserlo, per poi essere riscoperta lentamente nel tempo e riassimilata in tutte le altre nuove culture che avanzavano e che cominciavano a definirsi con questo tema, con questa definizione, insomma, quando c'è stata l'esigenza di riuscire a definirla in un determinato modo. Ma e questo ha creato però anche addirittura una sorta di manierismo dell'underground, che poi è durato fin troppo e senza mai uscire dal, appunto, l'underground, senza mai diventare mainstream. Ma soprattutto questo è accaduto anche per tante motivazioni che sono più legate, se vogliamo, alla società e alla politica piuttosto che a quello che hanno fatto a livello artistico di innovazione. Che definizione si può dare dell'arte underground? In teoria dovrebbe essere quell'arte che matura e sperimenta dei nuovi stili per poi diventare di dominio pubblico e non dovrebbe rimanere sostanzialmente underground per sempre, perché non avrebbe nessun senso. E quindi questa cosa qui ha fatto nascere una contraddizione che sta durando ancora oggi. Il titolo? Come mai il termine guerra? Questo qui è una cosa abbastanza particolare che uno lo capisce leggendo, perché si è trattato di una vera e propria guerra, nel senso che comunque tantissimi movimenti politici, ma anche semplicemente movimenti sociali o di gruppi di appartenenza, hanno sempre usato segni per confrontarsi con gli altri, con la società o col prossimo o con loro simili, in una sorta di conflittualità o per evolvere, per espandersi o per imporsi nella società. E viceversa, la società ha usato tantissimo, appunto, magari gli stessi segni per contrastare o per combattere tramite l'arte, la grafica, la segnica, appunto, le nuove tendenze che magari emergevano e dovevano essere contrastate. Quindi si tratta di una guerra a tutti gli effetti. La scelta dell'immagine di copertina? È un po' una provocazione, nel senso che ho voluto mettere uno stencil, una mascherina classica europea, nata forse una quindicina, se non addirittura una ventina di anni prima della versione riesumata fatta poi dalla nuova street art di Banksy, e che era assolutamente anonima e fatta in modo abbastanza casuale e in mille versioni da persone che non si firmavano. Quindi anche questo per far capire che c'è stata una continuità e c'è un mondo sommerso che non è stato seguito né capito fino in fondo. Com'è strutturato il libro? Partendo dalla storia dei singoli protagonisti, principalmente, quindi nel racconto tramite la vita dei personaggi che hanno creato un po' tutte queste forme artistiche, la storia di quest'art underground, con spesso inserti anche i parallelismi con quello che succedeva nella storia mainstream, nella storia ufficiale, fra virgolette, dell'arte, perché le cose non erano scollegate completamente, anzi, ci sono stati tantissimi collegamenti e intersecazioni anche particolarmente curiose e interessanti che spesso non si conoscono. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Basta andare sul sito dell'Agenzia X di Milano. Il libro La guerra dei segni, un'altra storia dell'arte. Un saluto e un ringraziamento all'autore Marco Teatro. A presto! Grazie a tutti, a presto. Eccoci all'agenda per quanto riguarda gli eventi culturali e il teatro della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio, e sarà una settimana insolitamente piena per essere l'estate. Andiamo a vedere dove. Per quanto riguarda il Festival Arena Estate del Teatro Torbella Monaca, in scena questo prossimo weekend ci sarà Exodus, la coreografia di Emiliano Pellissari, che è appunto la compagnia di danza che porta il suo nome, presenta appunto Exodus insieme a Mariana, che firma così insieme la coreografia, ma si tratta di Mariana Porcello, che appunto in arte prende il nome di Mariana e basta, no, come spera e basta, senza e basta, Mariana, vabbè, ci siamo capiti. Da venerdì 1, domenica 3 luglio, al Teatro Torbella Monaca, appunto, vedremo in scena questo spettacolo di Sculpture Dance e Physical Theater con tecniche illusionistiche, e tutto parte da questo nome della nave Exodus, che è quella che portò in Palestina gli ebrei nel 1947. Pochi sanno appunto il nome della nave che portò gli ebrei nella terra di Palestina, da cui poi ebbe origine tutto un bel casino, in effetti, di cui ancora nei giorni nostri stiamo sentendo l'eco. Lo spettacolo, se non sbaglio, era andato in scena anche al Teatro Olimpico di recente, quindi insomma ora se ne va anche al Teatro Torbella Monaca. Proseguiamo con... Insomma, è il caso di parlarne. I Nasoni raccontano, ritorna in piazza, nelle piazze di Roma, questa volta l'edizione numero 6, vede la zona Quadraro interessata e sarà in scena, già iniziato in realtà, sarà in scena fino al 2 di luglio, ed è uno spettacolo itinerante che racconta le storie della zona del Quadraro, uno dei quartieri simbolo, soprattutto per, insomma, il periodo che maggiormente viene ricordato dalla zona, ovvero sia quello della Seconda Guerra Mondiale, no? Conoscono tutti il rastrellamento del Quadraro, insomma, che rappresentò uno dei punti nevralgici dell'occupazione nazista a Roma, insomma, negli ultimi anni di guerra, e poi, insomma, quello che ha a che vedere la speculazione edilizia, tutta la parte degli anni 60, 50-60 in poi, fino agli anni 80. Insomma, i Nasoni raccontano perché fin dall'inizio l'idea di raccontare le storie della periferia romana è arrivata sempre attraverso la raccolta di storie proprio in questi luoghi simbolo, no? I Nasoni, le fontanelle di Roma, dove, ecco, la popolazione locale ha lasciato il proprio racconto, e gli artisti come Fabio Morgan, che insomma ha ideato, scritto il progetto, vanno poi ad interpretarlo, sono vari attori all'interno del territorio del Quadraro. Quindi i Nasoni raccontano, siamo a Piazza Don Sardelli, l'inizio è proprio lì, al Quadraro, l'edizione numero 6 di questa manifestazione. Per ciò che riguarda invece l'inizio di un'altra manifestazione sotto l'Angelo di Castello, siamo alla seconda edizione, a Castel Sant'Angelo, danza, musica, spettacolo, comincia questa settimana, il 1 luglio, ma andrà avanti fino al 25 settembre, e vede in questa occasione un inizio con la danza, è un inizio ideato da Gigi Cristoforetti, che insomma è un'istituzione nell'ambito dell'organizzazione della danza, un progetto di performance danzate, questo micro dance che sarà in scena 1, 2, 3 luglio. Le performance verranno ripetute 3 volte, dalle 19 alle 21, appunto in 3 orari, e dopo Atene e Bruxelles queste micro danze arrivano per la prima volta a Roma. Sono 3 livelli connessi tra di loro, cioè un livello originario di una esposizione di danza, il secondo una dimensione più immersiva, e il terzo invece è direttamente connesso col progetto europeo Ideal City, e quindi all'interno dell'evoluzione della città ideale. Per quanto riguarda il resto della manifestazione, poi insomma se ne parlerà più avanti, vedremo Roberto Latini, Massimiliano Civica, insomma ci saranno un po' di cose da dirci, però per il momento l'apertura è sulla danza, 1, 2, 3 luglio a Castel Sant'Angelo, per Sotto l'Angelo di Castello. E questa è la settimana anche di dominio pubblico, che è già cominciato, ma tra il Teatro Indio e lo Spazio Rossellini fino al 3 luglio porterà musica, danza, performance, un sacco di belle cose, soprattutto grandi discussioni attorno alle cose. Insomma, ci saranno un po' di spettacoli da valutare, di artisti nuovi, non troppo noti, insomma, che stanno cercando la loro strada, il loro linguaggio. Li vedremo in scena tra il Teatro India e lo Spazio Rossellini, ma sicuramente anche Tiziano Panici ci ha dato un po' un'idea di quello che sarà. Mi preme però segnalare invece uno spettacolo più noto, che è il progetto in realtà politico-poetico, che è stato premio speciale UBU nel 2021 della compagnia Teatro dell'Argine, che sta in Emilia Romagna, precisamente sono nei dintorni di Bologna, ma viene replicato a Roma insieme appunto al sostegno di ATCL, con le studentesse e gli studenti di 5 licei chiamati, dopo un percorso di 10 incontri laboratoriali nei mesi precedenti, a scrivere una lettera alla propria città, convocando un'assemblea e parlando in pubblico. Quindi un'idea di partecipazione politica attiva, no? Però con un'intenzione poetica per muovere la politica. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. E l'evento finale ci sarà giovedì 30 giugno alle ore 10:30 allo Spazio Rossellini, dove il Parlamento incontra la città. Questo è il titolo, e sarà appunto lo Spazio Rossellini. Gli studenti sono chiamati lì a leggere le lettere e presentare le proprie sfide, i progetti per il futuro, insomma, verso la platea di istituzioni locali e nazionali. E Teatro dell'Argine porta anche lo spettacolo Il Labirinto, sarà il 1 luglio in realtà virtuale, dove lo spettatore si muoverà nei cunicoli di una generazione, quella pandemica, che si è persa nei dubbi e nella paura di non farcela. Questo per quanto riguarda questa settimana dominio pubblico, un altro festival esclusivamente dedicato alla danza, che continua il suo percorso ed è fuori programma, cioè non è che è fuori programma, sì, è fuori programma rispetto alle stagioni, fuori programma è proprio il suo nome, diretto da Valentina Marini, e andremo questa settimana a vedere intanto oggi e domani, 28 e 29 giugno, al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, questa coreografia di Sharon Friedman, che si chiama Abrazos 147, cioè 147 Abrazos, in collaborazione con la Reale Accademia di Spagna, e seguirà sempre di Sharon Friedman Hasta Donde, che è un'altra coreografia appunto firmata da Sharon Friedman, un coreografo israeliano che da anni è residente in Spagna. E 147 Abrazos è un estratto di Dosis de Paraíso, un'esplorazione dell'amore e delle relazioni, in cui la chiave del lavoro è la ripetizione, che porta a una cadenza in grado di sacrificare la coscienza fino all'instabilità. Quindi il movimento in una relazione nasce sì da un bisogno, ma esige la soddisfazione dell'altro, appunto, altrimenti sarebbe senso unico del tutto. Per quanto riguarda invece Hasta Donde, è un lavoro che ha a che vedere molto con il corpo, con i modi del corpo, e quando cediamo i modi del corpo ci lasciamo, ci dice Sharon Friedman, alle spalle ciò che ci ha impedito di essere noi stessi. Quindi nella relazione tra ciò che diventiamo, ciò che siamo in origine, c'è questo Hasta Donde, saranno in scena entrambi 28 e 29 giugno, oggi e domani, al Parco Tor Tre Teste Alessandrino. Poi 1 e 2 luglio per il ritorno a Roma di Balletto Civile, regia di Emanuela Serra, siamo nel foyer del Teatro Biblioteca Corticciolo, mediazione appunto di Emanuela Serra, Guido Affini e Alessandro Pallecchi, la produzione del Balletto Civile, e lo spettacolo si chiama Loose Dogs. È una performance con presenza dell'ambiente della scena con quello dello spettatore, una scrittura di parole asciutte, lucide, messe in ritmo, cui le parole si fanno strada attraverso il corpo e incarnano l'urgenza, l'espressione, l'equilibrio tra l'emozione e la tecnica. Non c'è lieto fine, ci dicono qui, c'è il suono che è materia e c'è una sfida, perché la storia si ripete e l'uomo resta un abisso se ci guardi dentro. Ecco, questo è un po' il claim di questo Loose Dogs 1 e 2 luglio al Teatro Quarticciolo. Tornando invece al Parco Tor Tretesta Alessandrino, Balletto Civile presenta, con appunto qui invece la ideazione di Michela Lucenti, questo lavoro che si chiama Gente, hashtag Roma, spettacolo itinerante per luoghi insoliti. Al pubblico viene chiesto di seguire un percorso disseminato di situazioni e personaggi anormali. Anomali, che poi forse era un po' la stessa cosa. Una schiera di creature straordinarie al limite tra la semplice realtà che viviamo e la visione. C'è un'immagine insolita del luogo che ospita gli artisti, e questa immagine insolita renderà questo spazio un territorio in cui la realtà si incrina e le cose sono volutamente fuori posto. Quindi l'anomalia come entra all'interno dello spazio reale? Questo è un po' a quanto sembra la domanda di questo spettacolo itinerante, 1-2 luglio per Gente, hashtag Roma, al Parco della Testa Alessandrino. Ultimo degli appuntamenti, dal 3 al 5 luglio, insomma da domenica fino a martedì, ma noi lo sottolineiamo già da ora, nella sala Oceano Indiano del Teatro India, If There Is No Sun, Luca Brinchi, Irene Lussolillo, Karima 2G, 2G, 2G, come si leggerà? 2G, no. 2G credo sia, e presenteranno appunto questa prova aperta in collaborazione col Teatro di Roma nell'ambito di processi creativi, progetto internazionale promosso anche dal MIBAT, e soprattutto insomma il lavoro coordinato da varie entità sia nazionali che internazionali, e entra all'interno delle lingue, delle crepe che si aprono nelle lingue quando si parla di Africa, di Europa, di corpi territori, di confini che opprimono. Si prova a condividere sogni e desideri, un senso di estraneità. Si vorrebbero vedere i propri diritti riconosciuti e liberarsi dai fantasmi. Terra, mare, i corpi che all'interno di questi luoghi diventano altro, si mescolano, si trasformano, diventano nuova comunità che emerge dall'invisibilità. Questo è quanto andremo a vedere con If There Is No Sun, 3 e 5 luglio alle 17 e alle 19 nella Sala Oceano Indiano del Teatro India. E con questo abbiamo terminato. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.